L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta che giunge al termine di una settimana molto interessante a Milano sotto il profilo ambientale. Sarà stato l'effetto di Expo, ma si moltiplicano davvero le presentazioni, le conferenze stampa che hanno per oggetto studi e proposte o anche ricerche con benefiche ricadute sulla sostenibilità della nostra vita sul pianeta. Molti altri incontri sono in arrivo, noi cercheremo ovviamente di stare al passo con tutto, ma il suggerimento è di tenere gli occhi aperti e, se possibile, di partecipare alla vita non solo di Milano, ma anche di tutte le altre città italiane che sempre più spesso offrono possibilità di conoscenza, di approfondimento sui grandi temi connessi all'Expo, quindi l'agricoltura, la nutrizione, la tutela dei suoli e via dicendo. Ma a questo punto veniamo a noi. Tra le proposte di maggiore richiamo a Milano è stata senz'altro la presentazione fatta in grande stile alla Cascina Cuccagna delle capsule compostabili per il caffè, prodotte da Novamont per Lavazza. Le capsule che trovate ora in commercio non sono compostabili, cioè non si possono mettere nella raccolta dell'organico. Al massimo potrete trovare delle capsule o delle cialde biodegradabili che comunque non sono compostabili e che hanno tempi di biodegradabilità diversi a seconda del materiale di cui sono fatte. Quindi c'è da fare molta attenzione. Notando la grande diffusione dell'uso delle capsule per il caffè, già anni fa il Centro Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori, che è stato il primo comune italiano a darsi l'obiettivo Rifiuti Zero, aveva chiesto proprio a Lavazza di riprogettare le sue capsule. Lavazza alla fine quella via l'ha intrapresa davvero, l'ha intrapresa con Novamont, azienda italiana della chimica verde, e Katia Bastioli è l'amministratore delegato di Novamont e ci ha spiegato, proprio in fase appunto di presentazione di questo nuovo prodotto, in cosa consiste la novità di questa capsula e in generale qual è la filosofia, diciamo, della sua azienda e della chimica verde. L'innovazione consiste in tanti elementi su tutta la filiera, quindi la prima cosa che si vede, la più visibile, è che esiste una capsula che resiste, può essere in contatto con gli alimenti, resiste alle condizioni di alta temperatura e pressione per fare un caffè, si riesce a fare un caffè di alta qualità. In più, nella fine del fine vita del prodotto, il prodotto riesce ad evitare che il rifiuto organico e quindi i fondi di caffè rischino di andare a finire o in discarica, in inceneritore, e invece entrano nel riciclo del rifiuto organico e quindi, diciamo, economia circolare, e praticamente si va a ricreare quel compost che è antidesertificante per i nostri suoli, quindi un sistema chiuso. Ma è molto di più di questo, perché a monte invece, per fare questa capsula, in realtà impieghiamo, oggi si chiama infatti MaterB di terza generazione, impieghiamo tre tecnologie integrate, tutte e tre tecnologie Novamont, che hanno dato origine a tre impianti industriali in siti deindustrializzati, e quindi rimettendo in siti deindustrializzati dei germi di innovazione forte, portando in Italia produzioni che altrimenti non ci sarebbero state, ma al top della tecnologia. E quindi integrando, e quindi creando quella bioraffineria integrata, che è un po' il modello che Novamont ha pensato dall'inizio, che permette anche di integrarsi con le filiere agricole, e le filiere agricole non filiere agricole che sfruttano i terreni e non rispettano la biodiversità, ma filiere agricole, anche queste risultati di ricerca, che possono permettersi di crescere in terreni aridi non irrigui e che permettono di dare non soltanto materie prime per la bioeconomia, per la filiera per le nostre filiere, ma anche mangimi per gli animali. Per esempio, teniamo conto che la mangimistica è uno dei problemi dell'Europa, perché l'Europa importa mangimi e quindi è un elemento importantissimo. Quindi una bioeconomia che non solo utilizza materie prime rinnovabili, ma che addirittura non mette in contrasto cibo e produzioni, ma che addirittura crea delle opportunità nella filiera alimentare, e non solo, ma rimette a sistema anche delle aree che sono invece desertificate fondamentalmente o a rischio di desertificazione. Quindi il concetto è nella capsula. In una semplice capsula c'è in realtà un mondo, quindi anche un modo, anche un aspetto culturale, un modo per ritornare a vedere i prodotti non come prodotti, ma con quello che c'è dietro, e quindi il concetto di rigenerazione territoriale e anche di cultura per il cittadino, che quando tocca un prodotto deve anche andare a capire cosa c'è dietro, le opportunità che ci sono dietro. Quindi diciamo tante innovazioni in una. Dunque, lei ricordava gli stabilimenti, le chiedo di dirci quali sono. Sappiamo tutti Porto Torres perché c'è stato molta... Diciamo che noi abbiamo sei siti in Italia, ok? Tutti siti in aree deindustrializzate in cui abbiamo rigenerato. Nel caso specifico del Mater B 3G abbiamo Terni, Patrica e Porto Torres. Cosa si fa col Mater B 3G oltre alla capsula? Allora, 3G abbiamo, stiamo incominciando a partire anche col discorso degli shopper, quindi shopper che a questo punto, quando uno tocca lo shopper, non ha soltanto due tecnologie ma tre con altro lavoro, e non solo, ma tutto il collegamento con le filiere agricole, e non solo, ma un materiale che diminuisce il suo impatto ambientale ulteriormente. Quindi, ecco, ma non solo questo, tutto il, per esempio, in Expo presenteremo anche i prodotti food serviceware, quindi la parte, una parte importante anche questa di inquinamento del cibo, cioè in pratica i rifiuti alimentari sono spesso inquinati da plastiche. Allora, le plastiche biodegradabili hanno senso, non dappertutto, hanno solo senso quando inquinano il rifiuto organico e quindi non permettono, comunque riducono la possibilità di togliere il rifiuto organico da discarica, che è un delitto, che andrebbe punito fondamentalmente. Quindi questo è un discorso importante, per cui tutte quelle applicazioni, i piatti, i bicchieri, le posate, ma anche le pacciamature per l'agricoltura, ma anche prodotti che non sono biodegradabili e sono per esempio sono nel campo dei pneumatici, oppure i biolubrificanti, sono tutti prodotti che stanno nascendo adesso, e quindi tutti quanti con la stessa logica. Efficienza dell'uso delle risorse, filiere integrate, ripensare il modo di fare i prodotti, il modo di collegare industria e agricoltura, il modo di usare i prodotti e di pensare il fine vita. Il tutto in una progettualità integrata in cui il territorio gioca un ruolo di laboratorio a cielo aperto, in cui tutti noi cerchiamo di scoprire, di aumentare la nostra cultura e la nostra sensibilità verso i problemi ambientali, per un mondo che sia veramente efficiente nell'uso delle risorse e che rispetti l'ambiente e possibilmente anche le persone. La collaborazione è il nostro mantra, ha detto Katia Bastioli. Non possiamo sviluppare tutto da soli, abbiamo bisogno di integrare la cultura di chi conosce un certo mercato con la nostra conoscenza dei materiali. E allora sentiamo com'è andata appunto questo incontro di conoscenze da Marco Lavazza, che è il vicepresidente di Lavazza. A livello italiano abbiamo praticamente il 50% di quota di mercato, tutto quanto compreso. Okay. All'estero puntiamo a guadagnarne sempre di più naturalmente, però naturalmente è più difficile. Ecco, quanto è costato, diciamo, sviluppare questo progetto? Ma guardi, le cifre sono francamente poco importanti da questo punto di vista. L'importante è che due aziende che si sono messe insieme e hanno preso un prodotto che già esisteva e hanno affrontato delle sfide molto complicate per riuscire a contenere i criteri di alimentarietà. Perché basti pensare che lei il Mater B lo può utilizzare anche nelle shopper che trova al supermercato, però provi a metterle una pressione di 8 atmosfere e 90 gradi, mettendoci un alimento dentro, quindi insomma la sfida diventa veramente difficile. E quanto ha impiegato quindi questo progetto? Più o meno 5 anni fa, insieme a Novamont, da una ricerca che noi stavamo già conducendo al nostro interno, ma ci siamo resi conto che quello che funziona è una ricerca condivisa, quindi il fatto di poter parlare non con dei fornitori ma con dei partner, che diventano strategici nel lungo periodo e che come noi hanno investito moltissimo del loro tempo ma soprattutto del loro sapere per riuscire a risolvere un problema. È stato fatto e oggi lo stiamo presentando. Facendomi parte di un'associazione dei consumatori ci interessa particolarmente, secondo me sarà difficile questa opera pedagogica per i consumatori. No, francamente no, non sarà molto difficile, ci vuole del tempo come in tutte le cose, tutte le nuove tecnologie hanno bisogno di tempo per essere comprese e per essere apprezzate. Noi, ripeto, abbiamo il grosso vantaggio di essere un'azienda molto conosciuta in Italia e soprattutto amata, quindi essendo noi i primi a lanciare questo prodotto speriamo di poter dare il nostro contributo. C'è una linea di continuità con la sostenibilità che avete sempre portato avanti? Assolutamente sì, noi continuiamo a investire in tutta quella che è ricerca e sviluppo per qualsiasi aspetto del nostro prodotto, quindi non soltanto la sostenibilità dal punto di vista della materia prima, quindi in origine, attraverso per esempio la nostra fondazione, ma continuiamo a investire anche per quello che è la parte finale, quindi un concetto di responsabilità a 360 gradi della nostra azienda. Grazie. Una cosa, lei parlava di AMSA, sì. Qual è la collaborazione con AMSA? La collaborazione con AMSA sarà il recuperare il caffè che verrà utilizzato all'interno del padiglione Italia da Lavazza, verrà preso, dato a delle cooperative qui su Milano, e si cercherà di capire come sfruttare il fine vita del prodotto. Quindi è una sorta di sperimentazione di quello. Assolutamente che sì, assolutamente sì. Come diceva prima l'assessore, Milano è una delle città in Europa che ricicla di più da questo punto di vista. Quindi abbiamo trovato assolutamente corretto, sia in occasione dell'Expo, è stato molto facile lavorare con loro. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini. Stiamo parlando in questa puntata dell'Altro Pianeta della presentazione delle capsule per caffè compostabili realizzate da Novamont per Lavazza. Abbiamo sentito prima le due aziende in causa, ora sentiamo il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti. Prima di tutto sentiamo quello che ha detto nella conferenza di presentazione che si è tenuta a Milano alla Cascina Cuccagna. Il futuro dipenderà molto dalle politiche ambientali che noi metteremo in campo oggi, non domani. Se noi oggi siamo in grado di far capire che il mio ministero non è il ministero del no, come è stato vissuto per decenni. Quando una pratica arrivava al ministero del no, c'era il terrore. C'era il terrore da parte degli imprenditori, oddio, che cosa mi succede, potrò fare, potrò non fare. Questa fase è finita. È finita perché ormai gli imprenditori si sono resi conto dell'importanza che ha il mio ministero perché loro possano crescere in termini industriali. Quindi è diventato da un problema, può diventare una grandissima opportunità. E lo vediamo oggi. Oggi vediamo che cosa può fare la politica ambientale per lo sviluppo delle imprese. Marco Lavazza è qui a dire che ha un prodotto competitivo sul mercato perché ricicla un prodotto finale. O fino a poco tempo fa, per noi il prodotto finale, quando arrivava a essere rifiuto, era considerato un costo. Non sapevamo dove metterlo e ogni volta che dovevamo andarlo a metterlo da qualche parte diventavamo matti. Oggi invece, perché era pericoloso, lo metti in discarica, no, lo porti al termovalorizzatore, oddio dove lo butto, non diciamo dove l'abbiamo messo, dove alcuni fraudolentemente l'hanno messo in certe epoche di questo paese. Quindi era un problema. Oggi è diventata una grande opportunità economica. Non solo perché la gente oggi vuole politiche ambientali, perché ha capito che cosa vuol dire il rispetto dell'ambiente, ma perché dal punto di vista economico diventa lui stesso un vantaggio per l'impresa. Bene, se le aziende non devono più considerare il Ministero dell'Ambiente come quello che dice sempre no alle novità, abbiamo chiesto poi a Galletti, dopo il suo intervento, se il Ministero è in grado di accompagnare comunque le aziende verso l'innovazione sostenibile, perché è chiaro che non può dire sempre di sì. Il Ministero deve accompagnare, il Governo deve accompagnare le aziende verso verso quella che io definisco l'economia circolare. Cioè verso un'economia dei processi produttivi che consumino meno risorse e che producano meno rifiuti. Questo è conveniente per l'ambiente, è conveniente per gli imprenditori ed è conveniente per il paese perché si crea ricchezza e si creano posti di lavoro. La grande sfida che abbiamo davanti oggi è proprio questo, passare dall'economia del Novecento, economia lineare, a un'economia circolare che caratterizzerà tutti i paesi nel XXI secolo. Seconda cosa, sempre facendo riferimento a quello che diceva lei poco fa, l'Unione Europea deve essere il nostro anche riferimento, dobbiamo imparare ad accettare rapidamente, a implementare. Ieri l'Agenzia Europea dell'Ambiente, per l'appunto, ha rilasciato un rapporto che diceva che bisogna accelerare per poter migliorare, pensare a un'Europa diversa, un'Europa low carbon e così. Il Green Act di cui lei parlava va in quella direzione? Assolutamente sì, noi abbiamo bisogno. Tutti i paesi europei e noi anche abbiamo bisogno di recepire in maniera più rapida le direttive UE, abbiamo bisogno di applicarle bene nei nostri paesi, di renderle trasparenti e veloci. Detto questo, nei limiti dobbiamo applicarle considerando i limiti che l'Europa ci dà, perché i limiti europei corrispondono al criterio della scienza e della precauzione. Se noi a questo applichiamo anche il criterio della prudenza, rischiamo di escludere certe produzioni dal nostro paese. Il Green Act, un'idea di quello che sarà? Vedremo. No, non si sbilancia. E questo era il ministro dell'Ambiente Galletti. La nuova capsula compostabile di Lavazza e Novamont sarà utilizzata per i caffè del Padiglione Italia durante Expo. Questi 6 mesi saranno quindi il periodo di sperimentazione di massa sul campo. Al grande pubblico le capsule poi arriveranno nel 2016. Sarà AMSA, quindi l'azienda municipalizzata milanese, a gestire la raccolta delle capsule dei fondi di caffè dell'Expo nel Padiglione Italia. AMSA poi darà questi fondi e capsule alle cooperative sociali specializzate che si occuperanno di compostaggio e riutilizzo. A proposito di riutilizzo, però, ci domandiamo che cosa si può fare con questi fondi di caffè. We now have textiles with 8% coffee included. So that the natural body odor, alla cascina cuccagna, qualcosa ha accennato Gunther Pauli, che è l'iniziatore dell'economia blu, quella che cerca di formulare tecnologie ispirate dal funzionamento della natura. Aveva detto Pauli, dal caffè si possono creare abiti e scarpe che neutralizzano i cattivi odori, ad esempio. Altre idee arriveranno dal Politecnico di Torino, coinvolto nel progetto di Lavazza e Novamont. E questo è quello che ci ha detto il professore Paolo Tamborrini del Politecnico. Il fondo di caffè è un materiale che in questo momento è considerato materiale di scarto, ma per noi invece è una materia prima che è particolarmente ricca, una materia naturale di proteine, grassi, cellulose, quindi in realtà si possono fare molte cose. Le prime sperimentazioni sono state con ormai noti funghi, perché appunto con il micelio inserito nei fondi di caffè con un mix di cellulosa, dopo 30 giorni possono nascere questi funghi che sono commestibili, sono funghi che già si trovano nei supermercati, per cui nulla di particolare, ma però appunto siccome i fondi di caffè sono 6 milioni in un anno nel mondo, non è pensabile che si producano solo funghi di caffè, quindi la ricerca ci ha spinto ad andare a capire che cosa si può fare. E in realtà appunto proprio per le caratteristiche di questo materiale si può lavorare per esempio con per produrre degli inchiostri, sicuramente si possono estrarre degli oli, ma in questo momento il processo è ancora troppo oneroso e anche forse talvolta impattante, quindi non è conveniente neanche all'ambiente. Si possono costruire delle carte, quindi dei materiali cellulosici per la scrittura o per la stampa normale, e poi ecco, ci sono ovviamente sperimentazioni nell'ambito dell'utilizzo verso quello che sono il compostaggio, ovviamente, e poi questi possono, siccome hanno un alto potere calorifico, possono essere poi utilizzati per i pellet, per le caldaie, per cui in realtà poi appunto gli ambiti sono tanti, ci sono sperimentazioni nell'ambito dell'edilizia, per cui mattoni piuttosto che non tessuti, diciamo che in giro per il mondo ci sono tante sperimentazioni, proprio perché si è capito che si ha a che fare con un materiale che è una risorsa e non va sprecata. Quindi, ma parliamo solo di fondi di caffè o parliamo anche, lo studio vostro ha compreso anche il fondo con la capsula nuova, diciamo? Si parla solo di fondo di caffè. Diciamo che lo studio che hanno fatto con Novamont prevede anche questo tipo di apporto, nel senso che nel momento in cui il fondo viene raccolto anche come capsula può essere trattato in queste comunque sì, perché la capsula comunque è una capsula che può essere può essere biodegradabile, può essere trattata eccetera, per cui sì. No, mi avevo colpito stamattina, ho sentito Marco Lavazza che spiegava è compostabile, esatto, questo non è semplicemente biodegradabile nell'arco di 10, 20, 30 anni. La biodegradabilità non è sempre un fattore positivo, perché in realtà i materiali plastici tutti possono essere indotti alla biodegradabilità, però il problema è se io rendo compostabile un prodotto che poi entra nel terreno in maniera naturale, oppure rendo compostabile qualcosa che poi è innaturale. In questo caso ovviamente si è lavorato in una maniera, un processo naturale, in modo tale che, esatto, che consenta l'utilizzo per altri settori e che non vada a inquinare quelle che sono poi altri materiali, quindi quello è importante. Facendo, adesso poi la lascio, ma una graduatoria, i funghi diciamo che è chiaro che vengono bene e sono già... Poi qual è l'utilizzo più, diciamo, anche come costi-benefici? Ecco? Beh, sicuramente la parte di pellet, quindi la parte l'uso del calore. Poi in questo momento in cui si parla tanto appunto di sostituzione, di cercare energie alternative, avere un materiale che produce tanto calore in poco tempo e in poche quantità è sicuramente importante, per cui questi, forse addirittura metterei questo al primo posto, però ecco, sarebbe un peccato bruciare prima un materiale materiale che può essere utilizzato per farci tante altre cose, per cui quella dovrebbe essere al primo posto come, diciamo così, potenzialità, ma poi l'ultima delle cose da fare, no? Perché appunto i funghi sono esatto, no? E quindi invece appunto provare a produrre prima i funghi, trasformare magari qualcosa in inchiostro, farci delle carte, perché come ci insegna la natura non bisogna andare in una monodirezione, ma bisogna diversificare, no? E quindi anche con gli scarti provare a fare diverse cose, non una sola. La ringrazio, buon lavoro allora. Grazie. E in conclusione torniamo a Katia Bastioli, perché Novamont è già al lavoro sul Mater B di quarta generazione che verrà prodotto a Bottrighe di Adria, in provincia di Rovigo, in un vecchio stabilimento recuperato e adeguato alla produzione di Novamont. Altri 75 milioni di investimento che stiamo con grande fatica, perché non è facile autofinanziarsi queste cose, e quindi dovremo finirlo entro la fine del 2015 e partire nell'inizio 2016. La quarta generazione, che cosa? La quarta generazione è un'altra materia prima, è un altro building block delle bioplastiche che verrà sostituito, e quindi diciamo in questo caso è il butandiolo, che normalmente è un prodotto che è noto nella chimica, viene prodotto 1,8 milioni di tonnellate nel mondo, però viene fatto dalle grandi multinazionali da petrolio. In questo caso è la prima impianto al mondo che utilizza invece un microorganismo per fare una fermentazione, e da fermentazione da materie prime rinnovabili riusciamo a fare butandiolo. E questo butandiolo che noi utilizziamo nelle nostre bioplastiche, perché è un building block, sarà un biobutandiolo, il primo al mondo fatto, ed è un altro impianto primo al mondo che fa partire la piattaforma industriale delle biotecnologie industriali in Italia. Quali potrebbero essere le applicazioni di questo biobutandiolo? Il biobutandiolo certamente una sostituzione di un nostro building block nelle bioplastiche, diminuendo l'impatto ambientale, aumentando la percentuale di rinnovabilità, riportando in Italia delle produzioni, rigenerando nuovi impianti. Portando in Italia, perché l'Italia non lo produce. Non lo produce, infatti. Invece una curiosità. Ecco, però poi il butandiolo rinnovabile può essere utilizzato anche nei prodotti dove lo usano, cioè il PBT oppure lo Spandex, eccetera, però diciamo che per noi è una produzione per noi e va nel migliorare i nostri prodotti. Tutto alimentato, diciamo, localmente, no? Tutto alimentato e tutto locale. Stiamo lavorando per non solo, ma stiamo lavorando per diminuire sempre l'impatto delle filiere locali, e quindi la filiera del cardo, e quindi di filiere senza acqua e in terreni marginali o inquinati, eccetera. Questo è il nostro target maggiore, che può veramente dare una grande opportunità. Su questo sta lavorando tutta l'Italia della ricerca, sulle nostre filiere, sulle nostre aree d'agricoltura. A questo punto ci fermiamo, ci auguriamo che davvero sempre più capsule per il caffè diventino compostabili. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un saluto e un buon proseguimento d'ascolto.